Mix 24 di Giovanni Minoli. Il nano è morto, il nano è morto, il nano era un furfante, lo sapeva, lui sta proteggendo le sue aziende. Secondo lei Renzi e Berlusconi rimarranno alleati? Ma se no muoiono insieme. Muoiono e moriranno insieme, alleati, non alleati. Hanno finito, è finito questa cosa, è finita. Non sono neanche uomini a venire, tornare e dire sono qua, mettetemi in galera. Questo ometto che va, fa mezz'ora, mezza giornata alla settimana, è una fine ignobile. Grillo, però Berlusconi dice che gli italiani devono avere paura. Berlusconi è l'oltretomba. Berlusconi, siete dei voi siete dei medium che fate, che arrivano dall'oltretomba questi personaggi. È finita questa epoca qua. Giovanni Toti, buongiorno, capolista di Forza Italia alle europee nella zona del nord-ovest, coordinatore di Forza Italia. Allora, Renzi e Berlusconi, dice Grillo, vivi o morti insieme. È così? Ma no, lo escludo. Renzi e Berlusconi sono rivali, sono i due leader di due partiti all'opposto, uno rappresentante del Partito Socialista in Italia, l'altro del Partito Popolare. Sono alleati in un percorso di riforma che tutti noi speriamo vada a buon fine. Senta. Ma le riforme Minoli si fanno se sono buone riforme. Naturalmente. Non si fanno per farle, si fanno se servono al paese. Vabbè, avete fatto un accordo, infatti. Senta, Berlusconi adesso dice che Grillo invece deve far paura perché è come Hitler, cioè toni alti da tutte le parti, insomma. I toni di Grillo non sono esattamente... No, ho detto urbani. Toni alti da tutte le parti, insomma. I toni alti, le campagne elettorali ispirano sì. Toni alti in generale. Il giudizio su Grillo è un giudizio negativo, ma è negativo semplicemente per il fatto che i voti dati a Grillo sono voti buttati via. Grande rispetto per chi vota Grillo, in un'Italia di crisi c'è grande rabbia e quindi trovare un contenitore, un partito che esprima questa rabbia, che la canalizzi è soprattutto naturale parte di certi elettori. Però si è dimostrato, Minoli, che quei voti lì non servono a niente, sono voti esclusi dalla dinamica democratica. Però certamente hanno bloccato l'esplosione della violenza, questo è sicuro, perché quella rabbia si è canalizzata. Però io dicevo, lei si preoccupa per chi dice cose come queste? Di Grillo abbiamo sentito, senta qua. Silvio Berlusconi in questi anni si è circondato da troppi idioti inutili. Idioti inutili! Da troppi inutili idioti! Ecco Toti, questo è Alfano, cioè l'ex pupillo di Berlusconi. Lei si sente offeso da questo attacco? Ma guarda, è un attacco di tempo fa, io non mi sento offeso da nessuno. Sì, attacco. Ma non l'ha mai smentito, non è che mai ha pensato un'altra cosa. Quindi, guardi, io secondo me il nuovo centrodestra ha sbagliato tutto, quindi il mio giudizio politico sul nuovo centrodestra e sulle scelte di Alfano è molto molto negativo. Ma non sulla persona di Alfano, sul fatto che ha spaccato il fronte dei moderati, ha abbandonato il presidente Berlusconi nel momento in cui aveva più bisogno e soprattutto ha abdicato a quel dovere di difendere l'elettorato moderato che nelle urne si era preso sotto le bandiere di Berlusconi. Sarà difficile governo con il centro-sinistra. E non contano quasi nulla, quindi alla fine è stata una scelta deleteria non solo per il nuovo centrodestra che a mio avviso non ha nessuna sarà difficile però fare Toti, sarà difficile però fare alleanze con loro a questo punto, no? Con chi parla così? Oppure è solo propaganda elettorale? Io mi auguro che a un certo punto i toni si abbasseranno e che i moderati torneranno a stare insieme, anche perché i moderati insieme vincono, i moderati divisi perdono e non credo che nessuno voglia prendersi la responsabilità nei confronti dei moderati di essere sconfitto perché resta nel suo beato isolamento. Già sono stati fatti errori importanti a queste elezioni amministrative come in Piemonte, dove si è voluto correre da soli per contarsi, privilegiando il senso di partito, il senso della coalizione. Toti, queste elezioni europee sono il suo primo esame elettorale, che cosa si aspetta personalmente? Guarda, io ho scelto di candidarmi alle europee perché è un'elezione dove ci sono le preferenze. Appunto, quante preferenze si aspetta per considerare vincitore? Non è un gioco che mi interessa. Però è importante. Ma bisogna vedere quanta gente andrà a votare. Io spero francamente che la mia presenza aiuti a fare mezzo punto in meno di astensione più che una preferenza in più per me. Ha paura molto dell'astensione? Io credo che l'Italia debba aver paura dell'astensione quando vota. No, ma lei personalmente? Io personalmente come cittadino italiano ho paura dell'astensione, perché l'astensione vuol dire disaffezione dei cittadini per la politica. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Ecco, i temi elettorali caldi sono per l'Europa, sono tanti. L'euro però prima di tutto, è un referendum pro o contro l'euro? Beh, alcuni partiti cercano di trasformarlo. No, ma per lei? Per me è una visione semplicistica, quindi non è un referendum pro o contro l'euro, ma capisco che molti lo intendano così. Secondo me è un referendum pro o contro certe politiche di rigore dell'Unione Europea. E voi siete per un piano B rispetto all'euro oppure va bene così? Noi siamo per far funzionare l'euro, che diventi ma una moneta che euro così? Questo euro così non va bene a nessuno. E quindi ci vuole un piano B? Ci vuole un piano B, certo, ma ci vuole un piano B di importanti riforme per l'Unione Europea, sia per quanto riguarda i trattati, sia per quanto riguarda la Banca Centrale Europea. Certo che ci vuole minore. No, no, io chiedo a lei qual è la vostra linea. La nostra linea è che se la Banca Centrale Europea comincia ad essere una vera banca centrale degli stati che vi hanno aderito, che stampa moneta, che non guarda solamente alla tutela del potere d'acquisto e quindi all'inflazione, che garantisce il debito, può essere un'opportunità per gli stati che ne fanno parte, così com'è un freno. E quindi ci vuole un piano B, in assoluto. Berlusconi comunque provoca i tedeschi, senta qua. Schulz, a cui io involontariamente ho fatto una campagna pubblicitaria straordinaria e che non ha grandi simpatie nei confronti non solo del signor Berlusconi ma nei confronti dell'Italia. Non è che io avessi fatto un'offesa, io stavo sorridendo con la mia solita ironia, dato che lui aveva fatto un discorso contro di noi e aveva detto delle cose molto negative pigliandoci per degli estremisti di destra, io gli risposi sui punti, ma poi gli dissi benevolmente, pensando di dargli un lavoro, un'occasione di lavoro, gli dico: c'è un mio amico regista che intende fare un film sui campi di concentramento tedeschi, qua già apriti cielo, perché i tedeschi, secondo loro, i campi di concentramento non ci sono stati, no? E quindi le fosse di Putin, di Kosovo, sì, ma i campi di Katyn sì, ma i campi di concentramento in Germania no. Vabbè, a parte le fosse, diciamo nell'equivoco sulle fosse, abbastanza forte questa provocazione, non è piaciuta in Germania e non solo in Germania. Ma chiunque conosca Berlusconi sa che non era una sua Ma uno non è obbligato a conoscerlo, le parole valgono. Insomma, dopo... No, le parole, dico, le parole contro. Le parole valgono, si può ragionare per giorni e giorni sull'analisi di come Germania... Diciamo che non la imbarazza, insomma, questa no, dichiarazione. No, non mi imbarazza per nulla, è stata strumentalizzata politicamente e, come dire, poi a uno può piacere, a uno può non piacere, d'accordo. Uno può ritenerla più felice o meno felice, si può fare un dibattito storiografico lungo una giornata intera su questa frase. Senta. Ma non credo vi interessi questo. La verità che voleva sottolineare Berlusconi, che resta sacrosanta, è che in Italia chi vota il PD vota per Schulz, che certamente non è coerente con una visione d'Europa che noi abbiamo e che vorremmo, ovvero è il custode dell'ortodossia europea del rigore e viene da quell'Europa che oggi governa. Vabbè, l'Europa a guida tedesca, diciamo, sostanzialmente. È ancora peggio dell'Europa a guida tedesca Merkel, è un'Europa a guida tedesca socialdemocratica, quindi con un quid in più di burocrazia. Senta, il 20% per voi è un successo? Grasso. Guardi, che cola, dice, mi sembra di capire dalle dichiarazioni di Berlusconi. No. Berlusconi ha detto che punta al 25%, quindi non potrei, l'ha detto ieri, io ho detto che nelle condizioni attuali, dopo un anno così difficile per Forza Italia, la scissione di NCD, il nostro leader, lei dice, nelle condizioni in cui è più prudente lei. Il 20% non mi straccerei. Insomma, resta però l'accordo, intanto non barcolla l'accordo con Renzi sulle riforme, diciamo. Ma guardi, stiamo ragionando della riforma del Senato con grande serenità. Io spero, nessuno può dubitare che Forza Italia non voglia fare le riforme. Forza Italia lo vuole fare da anni. Napolitano ha dato una mano a trovare un accordo dentro il PD, mi sembra. No. Spero di sì, spero che il PD prima o poi la smetta di fare il congresso, ovunque si trovino tre esponenti del PD, si mettono a litigare e fanno il congresso. Senta, le faccio un'ultima domanda, dottor Toti, ma fare politica è davvero più interessante che dirigere un telegiornale? Ah, è una bellissima domanda. Direi è un'esperienza molto diversa. Vabbè. Non è detto che non torni a dirigere un telegiornale prima o poi. La politica deve essere una parentesi, andata e ritorno. Non può essere un mestiere. Anche lei come Santoro, insomma, va in Europa, poi torna a fare il programma. No, Mario no, Toti, come tutti i politici dovrebbero prendere questa esperienza come una parentesi al servizio del paese. Senta, c'è Mario Toti, c'è Mario Secchi. Mario Toti non è male. Mario Secchi che le può fare una domanda. E lui è Giovanni Secchi. E lui è Giovanni Secchi. Buongiorno, ciao. Ma dunque, è molto semplice. Sotto il 20 che cosa succede? Se non avete il 2 davanti. Ma no, non succede assolutamente nulla. Però se uno mi chiede quale ritiene che sia un risultato accettabile, io dico che il 25 sarebbe un grande trionfo, sopra il 20 lo ritengo nella situazione di mercato della politica attuale un risultato accettabile, sotto il 20 si vedrà. Occorrerà fare delle riflessioni, sono riflessioni che andranno fatte comunque dopo queste elezioni europee, che resteranno, vedrete, una chiave di volta della politica. Cosa intendi per riflessioni? Intendo che la politica si sta molto rinnovando, che anche Forza Italia ha cominciato un percorso di rinnovamento importante, per la fine dal nome che è tornato Forza Italia a partire. Vabbè, da Totti segretario sotto il 20. Totti segretario sotto il 20. Pietrangelo Buttafuoco, una domanda. C'è Pietrangelo che vuol fare una Buongiorno. Domanda. Buongiorno, la domanda è questa: mi ha colpito molto quello che ha detto a proposito di Alfano, cioè che ha diviso i moderati. Però, Alfano a parte, la domanda mia è questa: i poveri moderati, ma possono anche avercela con Berlusconi, che comunque in questo suo ventennio ha perso tempo con i vari La Vitola e i vari Tarantini? Guardi, i moderati hanno il diritto di avercela con chi credono, perché sono una categoria di riferimento importante. Io non credo possano lamentarsi del servizio reso al paese da Silvio Berlusconi, i moderati, perché è stato l'unico in 20 anni a dargli una maggioranza politica coerente e capace di difendere i loro interessi. Dopodiché, come è noto, l'Italia è un paese complicato, non tutto quello che si sarebbe voluto fare si è fatto, ma detto questo non credo che avrebbero potuto avere leader migliore. Grazie e buon lavoro. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 sms. Noi abbiamo esaminato la sua richiesta di rifinanziamento, non ci sono le garanzie sufficienti. Diciamoci tutto chiaramente, qui i contratti scarseggiano, i pagamenti sono sempre in ritardo, abbiamo i magazzini che sono pieni di scorte e le banche hanno detto basta, ecco la situazione. Forza, quanto ossigeno abbiamo ancora? A occhio 11-12 giorni, poi o paghiamo o presentano istanza di fallimento. Cosa facciamo? Io ho preso questa fabbrica da mio padre, per 40 anni abbiamo rispettato gli impegni, abbiamo sempre pagato tutto e tutti, non abbiamo mai mandato a casa nessuno. Io ho sempre prodotto profitti. Negli ultimi 3 anni no. Io adesso sto combattendo una battaglia per salvare la fabbrica e i vostri posti di lavoro. La sua azienda è morta. Good morning Vietnam! Michele Verna, buongiorno, direttore generale di Assalombarda. Allora forse è finita la guerra in Vietnam? In Lombardia almeno per le aziende dell'Assa Lombarda. Buongiorno Minoli, buongiorno agli ascoltatori. Ma non credo si debba parlare di guerra in Vietnam, spero almeno di no. No, finita, guerra finita. Speriamo che sia in fase di conclusione. No, ecco, glielo chiedo perché l'Assa Lombarda dice che per il 42% delle imprese associate a voi il fatturato cresce e che il 63% ha tenuto, insomma la ripresa sembra arrivare. Ma noi abbiamo fatto un'indagine consuntivo del fatturato 2013 e previsione 2014 delle imprese milanesi, esatto. È stato condotto dal nostro centro studi su un campione di 450 imprese dell'area milanese che sono statisticamente rappresentative, rappresentano il 10% delle imprese associate. Sì, non sono poche insomma. 42% delle imprese registrano un fatturato in crescita nel 2013 e il 21% diciamo sottolineare la performance è stata in linea con l'anno precedente, quindi sarebbe a significare che il 63%, circa due terzi, ha tenuto nel 2013 o è cresciuto. Ecco, il fatto che, no, dico, diciamo, quindi in qualche modo la ripresina si sottostima, insomma. Ma sono timidi segnali di ripresa, è chiaro che si sono migliorati negli ultimi due semestri del 2013 e sembrano avere una certa prosecuzione nel primo trimestre 2014, quindi è chiaro che c'è prudenza, c'è cautela, è uno scenario molto volatile, però mi sembra che i segnali di ripresa si stiano traducendo anche in concreti aumenti del fatturato e delle vendite. Ecco, quindi le imprese milanesi diciamo che sono ottimiste, perché 450 imprese monitorate, cioè il 10% del vostro universo, comunque sono un dato abbastanza significativo, insomma. Guardi Minoli, io le dico solo che noi monitoriamo questo con il nostro centro studi ogni 3 mesi. Ad aprile 2013, che era un anno fa, solo il 26% delle imprese prevedeva di migliorare i risultati del 2012. Invece sono state 60, 42. La percentuale è salita al 31% in ottobre, al 42% adesso a consuntivo. Quindi evidentemente le previsioni del 2014 rispecchiano questo. Infatti dopo 3 mesi di attività il 45% delle aziende si dichiara ottimista sui ricavi e il 40% prevede un fatturato stabile. Beh, quindi se usciamo dai numeri e andiamo, diciamo, nella sostanza, il trend mi sembra che stia migliorando, diciamo. Il trend è in miglioramento da 4 trimestri. Noi sappiamo che per gli imprenditori il sentiment, la fiducia, la voglia di scommettere è estremamente importante, quindi noi giustamente come istituzione dobbiamo sottolineare cautela, volatilità, però anche la sostanza, che il sentiment sia positivo. Ecco, ma la politica economica del governo Renzi allora va nella direzione giusta o no? Ma lei sa che non è un po' compito della Lombarda dire se la politica economica del governo, però io credo che ci siano stati dei provvedimenti in materia di lavoro, di facilitazione e in qualche modo di aiuto alle imprese concreto, che in qualche modo abbiano spinto gli imprenditori a usare di più. Credo che questo sia sempre la fiducia e pane per gli imprenditori, quindi credo che non c'è ripresa se non c'è impresa, quindi creare cultura di impresa debba essere un imperativo per il governo Renzi o per qualunque governo del nostro paese. Ecco, Mario Secchi ha una domanda per lei. Buongiorno Verna. Allora, le cito un provvedimento specifico, faccio un po', diciamo, un sunto di una cosa che secondo me è abbastanza controversa, e cioè la tassazione del risparmio. Complessivamente il governo Renzi di fatto la porta al 36%, creando una disparità tra chi investe in azioni e chi invece compra titoli pubblici. Non pensa che questa norma sia da correggere? Ma guardi, vede, il tema che in Italia ci sia uno sbilanciamento di una tassazione che è più bassa sulle rendite e troppo alta sul lavoro e sull'impresa, questo è un tema che Confindustria ha sempre sottolineato. È chiaro che poi la modulazione delle tassazioni sui vari capitali di investimento, sulle varie rendite, evidentemente è un tema del governo. Noi guardiamo con fiducia a un'istituenda commissione del ministro Padoan di esecuzione della famosa legge delega fiscale, sa che è stata approvata dal Parlamento a marzo. Finalmente c'è una legge delega complessiva per il riordino di tutta la tassazione, che ha la possibilità in un anno, entro marzo 2015, di riordinare tutto a parità di gettito. È chiaro che in questo scenario dovremmo, auspicheremmo che la tassazione sull'impresa, sulle tasse di impresa, diminuisca evidentemente sul lavoro. Ecco, dottor Verna, un'ultima domanda di Mario. No, sempre sul tema, per essere chiari. Chi investe 1000 euro in azioni oggi ha una tassazione reale del 36%. Chi compra titoli di Stato, per esempio per 10 milioni di euro, ha una tassazione nettamente inferiore dei 6 punti. Cioè, c'è un mercato asimmetrico, sì o no? E va corretto. Vede, il tema è che oggi come oggi un imprenditore, tra IRPEF, IRAP e tutte le altre tasse dirette e indirette, paga il 65-70%. Lo sappiamo. Io mi concentrerei su ridurre la tassazione su chi opera e chi fa impresa e chi crea reddito. Ok, va bene. Grazie. Comunque diciamo che un po' di rosa all'orizzonte lo vediamo. 800-24-0024, numero verde. 349-238-6666, sms. Intanto anche alla Assa Lombarda da numeri di speranza l'abbiamo sentiti, anche se relativi. Al sud, tra una disoccupazione drammatica e un'enorme difficoltà a incassare i crediti della pubblica amministrazione, ci sono però anche lì delle isole di speranza, come per esempio quella costruita da Angelo Petrosillo, cofondatore di Blake Shape, che costruisce aerei in Puglia. Ecco, perché i vostri aerei hanno tutto questo successo? Perché sono più performanti, più tecnologici, più sicuri e più avanzati rispetto ai competitor. Il nostro aereo costa 4 volte più dei competitor e vendiamo meglio dei competitor in tutto il mondo, perché il prodotto evidentemente viene premiato dal mercato. Quando avete cominciato eravate in 2, oggi quanti siete? Noi eravamo 2 quando siamo partiti, io e il mio socio. Adesso siamo 70 dipendenti, abbiamo raddoppiato lo stabilimento, abbiamo venduto quasi 60 aeroplani in 22 paesi diversi. Quanto fatturate? Facciamo più 200% circa ogni anno, sia del fatturato che del valore della produzione. Adesso abbiamo circa 5 milioni di euro di valore della produzione e noi contiamo di decuplicarlo nei prossimi 5 anni. L'anno prossimo saremo 100 dipendenti e nei prossimi 5 anni saremo tra le 3 più grandi aziende private aeronautiche d'Europa e speriamo di essere già quotati in borsa. Chi vuole venire a lavorare nella vostra azienda, che caratteristiche deve avere? Cerchiamo ragazzi e ragazze che abbiano voglia, determinazione, passione e fame. La metà sono ingegneri e questo significa che per produrre valore aggiunto è necessario investire sull'alta scolarizzazione. Accanto a questo ci sono anche dei ragazzi con una scolarizzazione relativamente bassa, ma che hanno la voglia e l'atteggiamento giusto per imparare ed essere leader in quello che fanno. I nostri ragazzi sono più bravi degli operai tedeschi, più capaci, più determinati, lavorano di più, eppure purtroppo per il costo del lavoro magari guadagnano di meno di stipendio. Avete ottenuto un finanziamento di 25.000 euro dalla Regione Puglia come startup più innovativa. Vi è servito? Se noi non avessimo avuto quella molla, saremmo rimasti a fare quello che stavamo facendo, cioè Luciano sarebbe rimasto a certificare centrali elettriche, io sarei rimasto a fare l'assistente di diritto pubblico comparato. Invece la molla di avere un'opportunità, sapendo che quel concorso non sarebbe stato truccato, quindi avendo la certezza che c'era assoluta trasparenza nell'assegnazione di quei fondi, ci ha dato la molla per provarci. Per fare impresa oggi in Italia ci vuole coraggio? Ma quello un po' sempre, credo un po' dovunque. In Italia di più, però insomma io una cosa la voglio dire, nel senso che io sento sempre anche in TV, insomma tante lamentele, un modo di approcciarsi alla fase che stiamo vivendo che sicuramente non aiuta, non è lamentandosi o rimarcando le cose che non va che si viene fuori da questo periodo. Io credo che i nostri nonni quando hanno costruito la sesta potenza industriale del mondo e avevano la casa distrutta dalle bombe, i familiari magari ammazzati in guerra e non avevano il becco di un quattrino, non penso che fosse in una situazione migliore della nostra. E a chi dice che in Italia non si riesce a fare impresa e che il paese non ha futuro, cosa rispondete? Ma allora io intanto rispondo che non è vero e dopodiché dico che sicuramente ci sono delle cose che non vanno. Sicuramente gli ultimi 30 anni abbiamo mancato molte delle occasioni che ci si sono presentate come paese, dopodiché l'Italia è fatta dagli italiani, quindi bisogna rimboccarsi le maniche, andare nel mondo, andarsi a cercare i mercati e tornare a uno spirito corsaro, garibaldino, di intrapresa, di avventura che forse abbiamo un po' lasciato nel cassetto e ci siamo accomodati sulla spesa pubblica, ecco, e sulle rendite improduttive. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Beh, un po' di luce dall'asso lombarda, un po' di speranza da questo ragazzo straordinario, Mario. No, questi sono bravissimi, hanno beccato la nicchia giusta di mercato, fanno aerei ultralight in fibra di carbonio, sono straordinari, altro che chiacchiere. Insomma, gente in gamba. C'è un'Italia sommersa che va raccontata anche quella, perché sennò sembra che siano tutti, come dice lui giustamente, seduti sulla spesa. Lamentarsi è facile, no? Star seduti sulla spesa ancora di più. È un po' più complicato. Pietrangelo? È una bellissima storia. A maggior ragione ci fa riflettere su un fatto, che quando si è giovani bisogna proprio dedicarsi alle avventure proprio del cervello, della creatività. E quella dell'aviazione, dell'aeronautica, dell'industria aeronautica italiana è una storia molto particolare. Ci pensavo a proposito della polemica sugli F-35. Pensate, l'Italia ha avuto una grande tradizione, a differenza dell'industria assistita automobilistica, ha avuto invece una grande tradizione, e riflettevo su come per esempio i mitici Savoia Marchetti, dai Marchetti, il G21, tutto, generarono poi anche un altro mito italiano, e ci riflettevo Francesco a proposito Baracca. No, un mito anche dell'industria, mi riferisco nel fatto che Francesca Torre, cioè Roberta Torre adesso, sta facendo uno spettacolo su suo nonno, l'ingegner Torre, che dai motori dei Savoia Marchetti ebbe lo spunto per realizzare la Lambretta. Fantastico. Mix 24. Incontro magico fra noi, raggio di luna tu, sentirti come il lampo, il fulmine, l'incognita, e abbandonarmi senza regole né limiti, la voglia, la pazzia, l'idea. Allora Pietrangelo? E allora è successo che stamattina in metropolitana squilla il telefono, una voce catanese mi riferisce, io penso di dargli il buongiorno, invece quello stava andando a dormire, aveva passato la notte in un'atmosfera di assoluta delizia, allora mi ha fatto risentire le note da solo Mario Biondi. Da solo non lo so, io non faccio queste domande. Il giornalista. Non so, ma che, sì, domanda. Tu fai il giornalista. Vabbè, ma lui è poeta. Lasciagli allora, fare il poeta. E quindi questa bellissima canzone, La voglia, la pazzia, l'idea, San di Biondi, Mario Biondi. Tu sai come si chiama questa, Giovanni? Come beh? Si chiama? Fase di Vanetto. Ah, fase di Vanetto? Noi abbiamo un'altra, non so se è un divanetto. No, comunque, non sto sui sto divanetti. Parlando della nostra quota rosa Sara Tardelli, che ieri ha esordito nel programma di calcio Tutti Convocati con enorme successo e grande applauso del conduttore che l'ha ringraziata per la sua brillante prestazione. Oggi parliamo della Cina, perché i riflettori si sono accesi proprio lì. Pietrangelo lo sa, anche lui è contento. Ma anche le donne cinesi, ragazzi, guardate che non scherzano, perché Forbes, e bisogna credere a Forbes, ha stilato la lista dei più giovani miliardari del mondo. E indovinate un po', la miliardaria più giovane è di Hong Kong. A 1,3 miliardi di dollari, per togliersi così i suoi sfizi, insomma così. E secondo me ha capito tutto però dalla vita, perché neanche Forbes è riuscito a trovare una sua foto. Tremate, tremate. Allora Mario. Tremate, le streghe sono tornate, il mondo è un carosello infernale. Tremate, tremate, le streghe sono tornate. Vai anche tu in Cina, Mario. Adesso non esageriamo, la guardiamo, ogni tanto ci si va, ci sono andato e ci tornerò, spero. Certo. Vuol dire. Ma vediamo, vogliamo sentire che cosa sta succedendo. Volete che i vostri pronipoti parlino cinese? Il dollaro sta per sparire. C'è stato l'impero romano, poi l'Europa, poi questo, noi. Questa cosa con auto, stereo e hula hoop. E abbiamo mandato tutto nella merda. No, l'hula hoop non c'è più, lo stereo è diventato andato. Tutto online, però la Cina c'è, avete sentito anche nel notiziario, c'è certo. In corso il sorpasso. Gli Stati Uniti stanno per perdere quindi il podio dell'economia mondiale che detenevano dal 1872 in anticipo rispetto alle previsioni. Secondo me adesso si apre tutta una disputa tra gli economisti. Vabbè, chi, quando? Sono peggio degli avvocati, certo. Gli economisti e degli assicuratori in generale, quindi solo cavilli. Ma in ogni caso resta un punto fermo, secondo me, e cioè che forse ci sarà il sorpasso sull'economia, ma il termine superpotenza number one resterà agli Stati Uniti. Perché? Perché poi ci sono le armi. Certo. E in quel campo gli americani continuano ad essere i primi. Nelle 15, tra le 15 nazioni che spendono praticamente i 4/5 della spesa militare, diciamo così, gli Stati Uniti hanno il 37% di questa spesa, mentre la Cina è all'11%. Però cresce, quindi anche qua, secondo me, tra qualche decennio. Insomma, forse, tutte queste armi poi bisogna usarle, no? Beh, sai, quando tu hai una spesa militare globale di 1,7 trilioni di dollari all'anno, capisci bene che non stanno al Louvre. Qualcuno spara, non stanno al Louvre. Siccome la corsa agli armamenti non si è mai fermata, anche se in Occidente è diminuita molto e il tasso di crescita complessivamente si è abbassato. Da altre parti no, vedi in Eurasia, per esempio. Se parlate con 100 persone, 102 vi diranno che odiano i banchieri. In generale, la gente ce l'ha con quelli che ha l'impressione siano in cima. Così è scoppiata la Rivoluzione Francese. Ah, fraternité, égalité, liberté. Non lo so, mi ha tenuto a fuoco. La Rivoluzione Francese è la più grande sciagura, catastrofe capitata all'umanità. Per fortuna che c'è stata, dai. Il secolo dei lumi, se ti sente Eugenio dire queste cose. Scalfali, ovviamente. No, ma bastiamo noi. Allora, diamo... C'è da tenere un po' cosa succede nelle banche centrali. Ci sarà il direttivo della Fed, della Federal Reserve, della banca americana. Dovrebbe continuare il taglio degli stimoli all'economia, quindi meno liquidità nel sistema. La Banca del Giappone conferma le sue stime per l'inflazione attorno al 2%. La BCE è in un momento di stallo, c'è un po' di incertezza, o meglio, Mario Draghi sta monitorando. C'è una notizia non smentita che avrebbe detto che in realtà il famoso stimolo da fino a 1.000 miliardi forse insomma è meno certo di quanto non è più sicuro, no, in attesa di sapere. C'è stato un meeting segreto con dei parlamentari tedeschi su questo. Vabbè, quindi i tedeschi non vogliono che ci sia la ripresa alla fine. Jens Weidmann, il capo della cara vecchia buba, cioè della Bundesbank, dice che il denaro, l'iniezione di liquidità è frutto del demonio. Ricordatelo, Mefistofele cita ufficialmente nei documenti della buba. Quindi, mamma mia, beh, Pietrangelo c'è degli occhi. Abbiamo degli ospiti, abbiamo degli ospiti. Siamo impazziti. No. Allora, adesso siamo nel pieno della campagna elettorale. Abbiamo necessità di sentire le due campane. O i due guinzagli, che dir si voglia, sarebbe il caso di dire. Par condicio, quindi uno per conto diciamo del cavaliere, e l'altro non tanto per il conto di Renzi, perché comunque Renzi ha il suo profilo, la sua storia, ma insomma un autorevole, importante esponente della sinistra, e ci affidiamo a due ospiti straordinari a cui voi potete fare una domanda. E si tratta niente di meno che del delizioso già Gennaro, ma che venne ribattezzato nel celeberrimo Dudù, e poi Dudù, che è appunto il cagnetto della signorina Francesca Pascale di Silvio Berlusconi, e poi tenetevi non il Labrador vezzoso, quello di città, bensì Ajace Telamonio, il cane di Massimo D'Alema. Accidenti. E quindi, carissimi, ma abbiamo questa fortuna di avere Dudu e Ajace. Per esempio, Mario, vuoi fare una domanda a Dudu? Certo, falla. Vuoi che io non approfitti di un'occasione? Dudu è in linea, mi dicono la regia che è in linea, fai la domanda. Guarda, io non ho avuto ancora una risposta netta da Giovanni Toti, quindi chiedo a Dudu: ma cosa succede se va sotto il 20%? Perfetto, io posso... Traduci? Mi traduco, perché ho le scuole alte. Sta dicendo, Dudu ha detto che se vanno male le cose sotto il 20%, lui finalmente potrà riposare sulle ginocchia di Silvio Berlusconi e affidare la guida di quel che resterà del partito a Flavio Cattaneo. Questo voleva dire Toti, che non ha potuto dire, e lui ha l'autorità per dirlo. Giovanni, tu vuoi fare una domanda invece ad Ajace Telamonio? Ajace Telamonio, ma vorrei chiedergli, ma fare pipì su un albero, un ulivo, non so bene cos'era, un ulivo da 1.500 euro, come dice il suo padrone, che effetto fa? Allora, sì, grazie. Dunque, Ajace ha detto... C'è un vocione. Ajace è più robusto di voce. È grosso. Vuoi mettere che Dudu... Ajace sta dicendo che apprezza molto il tuo stile diretto, riconosce in te una grande scuola, una grande professionalità nel fare le domande... E dalle miamo sto cane. Ma ha delle difficoltà al momento nel dare la risposta, perché hai notato nella voce, è infastidito nelle zanne. Dice, se vuoi chiedere perché è infastidito, lui ti risponde, dice. Chiediti perché? Perché? Perché è infastidito? Ah, ecco, sì, perché? Sì, sta dicendo perché ancora ha tra le zanne brandelli di polpacci di Alan Friedman. Grazie ad Ajace, grazie a Dudu. Grazie, bolla. Grazie, vai. Assolutamente. E sai che faremo? Vado. Un toga party. Toga, toga, toga, toga, toga, toga, toga, toga. Allora, vabbè, il toga party se lo fanno ancora una volta in Cina, è la mia fissa stamattina. Sono ancora turbato da Dudu e Aiace. La console da gioco di Microsoft, la Xbox, attenzione, verrà venduta in Cina dopo un divieto durato la bellezza di 14 anni. Sembra una robetta, è una notizia di mercato enorme, enorme, perché si apre un nuovo scenario anche per Microsoft. Vediamo quante ne vendono. Mix 24. Allora, Pietrangelo, l'ultimo salamino. Un'intera pagina di intervista oggi sul Corriere della Sera a Marina Berlusconi, presidente della Mondadori, dove dice di Renzi il nuovo che arretra e di Alfano e di tutti gli altri ha tradito la sua storia e proprio concentrandomi su questo concetto, sul tradire la propria storia, dice di tutti quelli che sono andati via, che hanno abbandonato Silvio Berlusconi, l'unica cosa in cui sono grandi è la mediocrità. Ma domanda che ci domandiamo, Sandro Bondi a questo punto resterà titolare della collana editoriale nel catalogo Mondadori, dove hanno pubblicato i loro libri? Vai. Angelino Alfano, Bustia, che secondo la definizione del presidente del Mondadori è grande nella mediocrità. Poi sì. Sacconi, che secondo la definizione del Mondadori è grande nella mediocrità. Poi Cicchitto, grande che è grande nella mediocrità, secondo me. Vai. Alla fine li finito. Ha pubblicati. Non ci sono altri autori fortissimi, peccato. È finita. E Dostoevskij? Quello è pubblicato da tutti, anche da Feltrinelli. E oggi non abbiamo il tempo per il nostro canzoniere. Professore, dov'era il canone ieri sera? Guardate, ieri sera il canone era su MTV, perché visto che voi mi criticate sempre, mamma mia, sempre più di nicchia, professore, con tutti i problemi che ha la RAI, andiamo su MTV. Ieri sera è tornato PIF con il testimone. Allora è un giornalismo che mi piace, perché è un giornalismo candido, proprio è Candide che si aggira per l'Italia alla ricerca di cose. E fa queste domande straordinarie, sto in giro con questa faccia di quello che è convinto che la mafia uccide solo d'estate, e chiede per esempio nel mondo della moda, alla settimana della moda di Milano, chiede: ma perché le modelle sono tutte così magre fino al punto da sembrare brutte? Oppure, ma questo vestito chi se lo metterebbe al di fuori della settimana della moda? Oppure, ma chi è che decide cosa fa tendenza? Vabbè, allora... Cioè, quelle domande che tutti ci faremmo, ma che non abbiamo il coraggio poi di decidere. Insomma, fa il giornalista, diciamo. Ed è bellissimo, perché di fronte a queste domande, gli addetti ai lavori... Si stupiscono. Le prendono sul serio, no? E rispondono con quella loro logica che è piena di assurdità, e appare tutta l'assurdità di questo mondo. Ieri era quello della moda, altre volte sarà un altro. È veramente un modello di giornalismo che diverte, che mi piace, ma che va alla radice delle cose. Bravo PIF, applausi a PIF. E noi intanto dunque, questo è per te Pietrangelo. Dico. Grazie Massimino, grazie Aiace, finalmente una cosa di sinistra. Oh. È piaciuto. Hai visto? Professore, a lei piace la gabbia? Il genere no. E lui? E paragone? Il genere devo dire che è un'interpretazione abbastanza originale. E allora sentiamo Sara Tardelli che ha intervistato Paragone. Gianluigi Paragone, lei in onda con la gabbia tutti i mercoledì alla 7, si sente più libero? Molto più libero. Perché? Perché Cairo è un editore puro, Cairo non ha legami con la politica così come la politica influenza la RAI e mi lascia la grande libertà editoriale. Lei ha detto che non vuole essere credibile ma creduto, è per quello che si è rimesso i jeans e l'orecchino? Sì, perché bisogna andare oltre l'irruenza delle parole, andare oltre anche quelle che possono essere le tesi provocatorie o forti. Allora, la differenza tra essere credibile ed essere creduto è che a volte la credibilità passa anche dall'abbigliamento, quel famoso abito che fa il monaco. Per essere creduto ti devi fermare, devi soffermare sulle mie parole, le devi pesare e poi mi devi valutare per il senso delle parole, non per il senso estetico. Ma una cosa che secondo me è anche collegata a questo cambiamento di look, che non è solo di look, l'identità del suo programma è ricercata oppure la gabbia è la semplice espressione del suo modo di pensare? È l'estensione dell'ultima parola. Già l'ultima parola in Rai aveva esplorato delle chiavi di lettura, degli argomenti che erano allora poco battuti su tutti: l'Europa, l'euro, il rapporto tra l'economia finanziaria e l'economia reale. Alla gabbia ho potuto, appunto forte di quella libertà che dicevamo prima, ho potuto approfondire meglio questi argomenti. Quindi la ricercatezza non è della gabbia in sé, è di un racconto che era cominciato un po' di anni fa. Grasso, sul Corriere, dice che lei dà voce agli istinti più bassi del paese. È una scelta? Ma questa è la lettura di Grasso. Dalla pancia del paese? La pancia del paese, bisogna metterci d'accordo, perché alcuni fanno coincidere la pancia del paese con il populismo. Se così fosse, allora mi piace molto la citazione di Dahrendorf che diceva che il populismo è la democrazia degli altri. Allora può anche essere che la pancia per alcuni e la testa per altri. Ma questo, diciamo, urlare, rivendicare, se poi non viene in qualche modo ricondotto a una soluzione, a un ragionamento, non si rischia di creare solo antipolitica? L'antipolitica è una diversa politica, è una diversa istanza di politica, è una diversa fame di politica. Si urla perché è meglio l'urlo che il gesto esasperato o violento di altri. L'urlo è ancora dentro il perimetro della democrazia. Che è quello un po' che dice Grillo. Io penso che il Movimento 5 Stelle serva molto al contenimento della democrazia. Se non ci fosse un movimento del genere, ci potrebbe essere una deriva molto più pericolosa. Invece è un contenitore politico utile alla democrazia. Paragone, la crisi del talk show c'è o no? È meno marcata della crisi della carta stampata. Siccome a sottolineare la crisi del talk show sono spesso i giornali, mi sembra che forse la maggiore riflessione la debbano fare loro sull'emorragia di coppie perdute. Insomma, non è preoccupato? No. Mario, ancora una bolla. Sì. Ti piace questa? È un po' da teen, si chiama Changes. Allora, io spero, Pietrangelo, che i nostri ospiti di prima, cioè che Dudu e Aiace, che spero ci tornino a trovare, ascoltino la musica. Segnalo che negli Stati Uniti, dove accadono un sacco di cose che poi noi importiamo, c'è un accordo importante tra Spotify, il fornitore di musica online, e Sprint. È un altro passo decisivo, è un'altra tendenza. La segnalo perché in Italia non sta succedendo nulla, tranne il lieve fatto che Telecom è passata in mano spagnola, così, giusto? Sostanzialmente. Giusto così. Lo segnalo. E la rete, forse. Forse la rete. Non si capisce se anche la rete diventa spagnola. Cioè, voglio essere perfino noioso. La ciccia è tutta qui, nelle cose che vi diciamo che accadono nelle grandi compagnie mondiali e dentro i governi. È tutto questo. Il resto è fuffa, è chiacchiera. È chiacchiera. Oggi Marina Milone ci racconta una storia importante, la storia di Pio La Torre, deputato del Partito Comunista, che è stato il primo parlamentare ucciso da Cosa Nostra. Il suo nome è legato alla legge Rognoni-La Torre, che introduce nel codice penale italiano il reato di associazione mafiosa, l'articolo 416 bis. Dopo il giornale radio.